Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, a tutti buona giornata e benvenuti nella nostra trasmissione 2 maggio. Ricominciamo a parlare delle tematiche economiche molto care alle famiglie italiane. Di cosa parliamo oggi? Parliamo dei prezzi che frenano, l'abbiamo già detto 2 giorni fa, commentando i dati sull'inflazione italiana che sono letteralmente precipitati da un mese all'altro. In questo momento l'indice dei prezzi al consumo nel nostro paese viaggia intorno all'1,2%, peraltro questa è anche una bella scusa che oggi Mario Draghi potrebbe adottare qualora appunto decidesse di ridurre i tassi di interesse in Europa. Però anche se i prezzi frenano, il carrello della spesa continua a svuotarsi e le abitudini degli italiani stanno cambiando. Aumenta per esempio il ricorso ai cosiddetti discount. In base ai dati Istat, più di 6 famiglie su 10 fanno la spesa servendosi di queste catene commerciali e secondo la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, la quota di famiglie che acquista esclusivamente in questo tipo di esercizi commerciali è praticamente raddoppiata e supera attualmente il 20%. Allora, noi oggi ci vogliamo confrontare con i nostri esperti, con i nostri interlocutori su questo tema, ma anche con voi ascoltatori, per capire se queste catene rappresentano un punto di riferimento oggi e perché, come cambiano il modo di pensare, a quali esigenze rispondono e se è vero, come sostengono alcuni, che questo tipo di scelta rappresenta per la famiglia una rinuncia all'acquisto di prodotti di qualità, oltre che la ricerca di risparmio. C'è addirittura chi ha definito questo mondo come l'estremo avamposto del low cost e quindi, siccome ci è sembrata un po' anche una definizione esagerata, abbiamo voluto appunto esplorare un po' meglio questo mondo. In realtà discount e dark discount hanno cambiato faccia negli ultimi anni e hanno dimostrato invece di non puntare solo ed esclusivamente sul prezzo sempre più conveniente, ma anche all'estetica e anche soprattutto alla qualità del prodotto proposto appunto alle famiglie. Cosa ne pensate di tutto questo? 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi. Fate la spesa al discount o avete iniziato a frequentarlo solo di recente perché il piatto piange, anzi il portafoglio piange, e quindi avete modificato le vostre abitudini di spesa, non più solo ed esclusivamente al supermercato sotto casa, ma magari cercate un centro commerciale più conveniente, un po' più lontano da voi, e quindi avete cominciato a conoscere meglio anche questo mondo. Con che risultato? Come vi trovate? Con noi questa mattina ci saranno Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti voi. Ben trovato anche a Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, con tutte K, lo ricordiamo, un motore di ricerca delle promozioni che permette appunto, navigando su questo sito, alle famiglie e ai consumatori di appunto esplorare tutte le offerte in corso nelle catene della grande distribuzione, ma anche nei discount. Non ancora. Quindi dovete andare a naturalmente monitorare anche questo mondo, però sicuramente ha un punto di osservazione interessante sulle nuove tendenze delle famiglie italiane. E poi con noi Tito Lombardini, presidente di Lombardini Holding. Presidente, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata. Un grande esperto della distribuzione moderna, ma possiamo dire che questo gruppo per esempio è stato quello che ha inaugurato in Italia il primo cash and carry nel 1964 con l'insegna Gross Market. Lombardini, ho detto bene? Sì, ma questo appartiene al passato. Come, scusi? Appartiene al passato adesso, ma tanto spiace, per dire. Mi spiace della mia voce un po' flebile, ma sono vittima di un raffreddore. Guardi qua i malanni di stagione tra le allergie e quant'altro. Non di avere delle idee chiare o di tentare. No, non vorrei che le facesse venire l'allergia, l'argomento di cui stiamo parlando questa mattina. Contrario. Ecco, infatti, perché so che lei ci tiene molto invece a raccontare come sta cambiando il mondo del discount e dell'hard discount, perché lei ha fatto tanto lavoro appunto in questo senso. Allora, ho ricordato ai nostri ascoltatori il numero verde per intervenire in diretta. Ci potete anche chiamare al 34, no, ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Non ho più indirizzi, non ho più numeri di telefono, adesso abbiamo altri numeri che sono quelli della borsa. La giornata è contrastata fra i listini europei perché, come vi abbiamo già raccontato anche nel giornale radio, il quadro vede in territorio negativo Parigi meno 0,27%, Londra meno 0,22%, Milano meno 0,28%, guadagna circa mezzo punto Madrid, invece Francoforte più 0,31%. Questo è il clima di attesa della riunione di oggi della Banca Centrale Europea, che probabilmente, ma insomma il mercato appare piuttosto convinto del fatto che oggi Mario Draghi, che riunisce la BCE a Bratislava, potrà ridurre i tassi di interesse in Europa almeno dello 0,25%, portandoli a mezzo punto percentuale. In Europa qualcuno si spinge ad ipotizzare anche un taglio più drastico, più forte, lo vedremo solamente alle 13.45, poi alle 14.30 consueta conferenza stampa appunto del presidente della BCE. I listini nervosi, dicevo, oggi anche perché ieri la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha evidenziato nella pubblicazione delle minute della sua ultima riunione una politica monetaria che probabilmente rimarrà invariata ancora a lungo, ma anche con possibili aperture ad un nuovo stimolo dell'economia, forse sulla scia di quanto ha fatto recentemente il Giappone. In ogni caso la parola d'ordine davvero per i mercati da qualche tempo a questa parte è il comportamento delle banche centrali. A Milano i migliori e i peggiori titoli, un'occhiata veloce: A2A più 3 punti, TOZ più 1,27, Mediaset più 1,27, Fondiaria Assai in rialzo di un punto. In calo più forte invece abbiamo Tenaris, che perde il 4,69%. Il gruppo ha pubblicato i suoi conti, che evidentemente vengono così considerati dal mercato non propriamente soddisfacenti, quindi il titolo scende. Buzzi Unicem meno 3, Banca Monte dei Paschi meno 1,59%. Spread fra BTP e Bund a 263 punti base e il rendimento sul BTP decennale, che ancora si trova sui minimi dall'ottobre del 2010, intorno al 3,8%. Per la borsa è tutto, il tema di oggi, gli italiani e la spesa al discount. Con la crisi, ogni comportamento d'acquisto è ormai improntato al massimo risparmio. E anche se i prezzi frenano, gli italiani continuano a comprare sempre meno. Sono tanti i casi in cui si arriva a rinunciare alle spese essenziali, come ad esempio quelle per le cure mediche. Secondo la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, questo avviene in oltre 16 milioni di famiglie. Tra le nuove abitudini portate dalla crisi ce n'è una in particolare, che ha fatto discutere e riflettere molto negli ultimi giorni. È nettamente aumentata, stando ai dati Istat, la quota di famiglie che acquista presso gli hard discount. Si dedica inoltre più tempo a fare la spesa. Nel 65% si comparano i prezzi con maggiore attenzione, mettendo da parte la fretta. Si prediligono i marchi commerciali più convenienti rispetto ai loro omologhi di marca e ci si mette alla ricerca di promozioni, sconti, offerte speciali, preferendo le più grandi, forse scomode ma più convenienti, confezioni formato gigante. 6 famiglie su 10 si rivolgerebbero alle catene considerate come il low cost della grande distribuzione e si attesterebbe a circa il 20% la quota delle famiglie che fanno la spesa esclusivamente affidandosi a questi esercizi. Un dato raddoppiato dall'inizio della crisi. Alcuni la indicano come una notizia preoccupante, indice di una minore attenzione alla ricerca di prodotti di qualità. E se si trattasse soltanto di un nuovo modo di approcciarsi ai consumi e alla spesa? Discount e hard discount possono infatti essere anche oggetto di alcuni facili pregiudizi. Contro i quali poi l'industria di settore chiaramente combatte in ogni modo, ma a quanto pare adesso questi pregiudizi li stanno superando anche i consumatori, che frequentano sempre di più discount e dar discount a discapito invece magari delle insegne più note della grande distribuzione. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Rosario Trefiletti, volevo cominciare subito con le associazioni dei consumatori. Perché? Perché io ho voluto fare questo argomento oggi a Salvador Danaio. Abbiamo dedicato tantissime puntate agli italiani e alla spesa, questo carrello della spesa che è sempre più ridotto come quantità e anche riorganizzato secondo i criteri appunto di qualità dei prodotti che gli italiani ci mettono dentro. Ma a me ha colpito molto queste osservazioni molto forti che ha fatto in questo comunicato stampa la Confederazione Italiana Agricoltori venerdì scorso, che ha detto che gli italiani fanno sempre più ricorso agli hard discount, considerandolo come l'estremo avamposto del low cost. Allora, io vorrei capire, non è che fino a ieri gli italiani si nutrissero solo di caviale e champagne e adesso sono passati al pane raffermo di 3 giorni fa? Come la pensa lei su questa novità di comportamento? Cioè, da considerarla, so che c'è la crisi, che le famiglie sono in difficoltà, ma magari adesso sono un po' più razionali più che nella spesa. Che dice? Assolutamente, proprio così, cioè non è che c'è un impazzamento generale, questo è il condizionamento molto preciso, molto forte, che per la verità diciamo già da lungo tempo, per cui il potere d'acquisto ovviamente condiziona i comportamenti dei consumatori. Basti citare due dati molto rapidamente: nel quinquennio 2008-2013 il potere d'acquisto delle famiglie è sceso di oltre il 14%, nel biennio abbiamo calcolato che anche qui c'è stata una discesa molto forte del 6,7%, beh, è chiaro ed evidente che questo comporta un atteggiamento del tutto nuovo da parte dei cittadini, delle famiglie. Cosa succede? Succede innanzitutto che c'è, come tutti sanno, una forte riduzione dei consumi, e la cosa grave è che non è che si consumi di meno in automobili, frigoriferi, motorette o altre cose ancora, no, è il consumo alimentare che, ecco, lo sappiamo, non è che sono messi tutti a fare la dieta le famiglie italiane, è chiaro che è un segno molto evidente della crisi che sta attraversando il paese e quindi le famiglie. Allora c'è un problema di forte contrazione dei consumi. La seconda cosa, nella contrazione ci sono anche processi di sostituzione, cioè nel senso che anziché comprare della carne si comprano più uova, più formaggi, più legumi ed altre cose ancora, c'è proprio un processo di sostituzione verso prodotti che costano decisamente di meno e che contengono più o meno le stesse capacità nutrizionali. La terza cosa, lo diceva già giustamente lei, è insomma c'è anche una riduzione di quello che viene definito nel mercato la qualità dei prodotti, e cioè una riduzione di una scelta diversa di prodotti a marchio verso prodotti che invece non sono a marchio. Questo non significa che c'è una caduta della sicurezza, perché anche su questo bisogna fare chiarezza, non significa che c'è una caduta della sicurezza per quanto riguarda i prodotti che si acquistano, perché qualsiasi prodotto, dal più, diciamolo per capirci, dal più scadente a quello eccezionale, devono avere lo stesso grado di sicurezza. Quindi non è un problema di sicurezza, ma chiaramente è un problema di qualità, e quindi questa questione avrà anche una ripercussione su tutto il modello industriale di trasformazione e di produzione dei prodotti agroalimentari. E magari speriamo, ecco, che questa trasformazione vada a beneficio anche dei produttori italiani, che speriamo possano mettere sempre di più i loro prodotti appunto sui banconi dei supermercati italiani, sia che proprio siano così, discount, piccoli o grandi, o grandi centri commerciali. A proposito, tra l'altro, della qualità di questi prodotti, questa mattina mi sono fatta una chiacchierata con l'amministratore delegato di un'insegna di questo mondo che non è potuto intervenire a Salvadanai, e mi ha detto: noi siamo in sintonia con lo stomaco degli italiani e le procedure di controllo nei nostri centri commerciali sono estremamente stringenti, alla pari, forse di più anche di quelli appunto dei centri commerciali delle insegne più grandi, per cui noi chiaramente ci fidiamo e frequentiamo sempre di più. Beh, questi, per norma e per legge. Certo, quindi, infatti, quindi diamo anche questo profilo di sicurezza ai nostri ascoltatori. Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, un motore di ricerca delle promozioni, è stato il primo nato in Italia, e attraverso appunto questo motore di ricerca gli italiani possono fare una ricerca appunto dei prodotti più convenienti, centri commerciali diciamo vicini a sé, quindi si può mettere il proprio profilo, proprio nome, cognome, la via dove si abita nel vostro sito, se non mi ricordo male, da un po' che non vado a curiosare, e appunto cercare le offerte migliori per una determinata categoria di prodotti. Quante referenze intanto potete confrontare? Beh, nel nostro database ne abbiamo 55.000, chiaramente non sono tutte contemporaneamente in offerta, comunque si parla di migliaia e migliaia di nuove offerte ogni giorno. Questo tanto per far capire che il vostro punto di osservazione è completo e sicuramente interessante. Che gliene pare di tutta questa conversazione su questo argomento stamane? Ma mi sembra sicuramente in sintonia con i trend del mercato. dato che uniscono un fattore strutturale di lungo periodo, che è una maggiore articolazione del mercato verso l'alto ma anche verso il basso, come in questo caso, e un fattore congiunturale che invece è specificamente legato a questo periodo di innegabile crisi. La spesa al discount si innesta in questo tipo di trend. È sostenuta da un trend di lungo periodo che agisce, ripeto, sia verso l'alto sia verso il basso. Basti pensare che negli ultimi 10-15 anni è cresciuto moltissimo il consumo di prodotti biologici che hanno un prezzo più alto. Infatti. E contemporaneamente è cresciuta la spesa al discount o la quota di prodotti venduti in promozione di 10 punti percentuali sulla spesa degli italiani. Quindi c'è una maggiore biforcazione lungo entrambi gli assi degli acquisti degli italiani, ed è chiaramente ulteriormente spinta dal momento di crisi. Poi c'è anche da dire che i discount stanno crescendo come diffusione sul territorio, quindi diventano sempre più accessibili rispetto a 20 anni fa, quando non esistevano. E si stanno appunto riposizionando verso l'alto, come ci diceva lei anche prima. Ovviamente figuriamoci se non c'era qualche ascoltatore che mancava di ricordare il caso delle mozzarelle blu, marchio Land, in vendita appunto da Eurospin. Ce lo ricordiamo tutti, però in tutti i settori c'è sempre un caso che magari rischia di oscurare la reputazione di quel comparto. In questo caso è successo a loro. Detto questo, appunto, non serve ad identificare invece il lavoro che si fa all'interno di questi centri commerciali, che io invece stamattina voglio sponsorizzare completamente, anche perché mi sta molto simpatico Tito Lombardini, presidente appunto di Lombardini Holding, che conosce molto bene questo mondo e soprattutto quanto è cresciuto in Italia, nel nostro paese. Quanto è responsabilità in questa crescita, Lombardini, della crisi? Quanto invece lavoro avete fatto voi per farvi conoscere sempre meglio e posizionarvi sempre meglio sul tessuto appunto italiano? Lei è troppo gentile nei miei confronti, la ringrazio. Allora, che ci dice? Rispetto anche a tutta questa conversazione, c'è chi vi dice che siete il luogo dove vanno un po' quasi come le mense quasi della Caritas, no? Si va al discount perché la gente sta con le pezze al sedere. No, molto distante da tutto questo. Comunque, condividendo le riflessioni che sono state fatte, sono assolutamente ineccepibili. Volevo solo aggiungere una cosa. Sono anni che le nuove tecnologie, internet, telefonini, outlet, banche online, mentalità green, tutto il mondo low cost, lo dobbiamo sempre definire in questa maniera all'inglese, che tra l'altro è anche una difficile traduzione come concetto in italiano. È impossibile, perché in realtà è una filosofia, giusto? Ammesso che si possa usare questa parola. Ma in effetti tutti questi movimenti qui hanno generato, cosa che a noi non era ancora successo, nuove abitudini e soprattutto nuove generazioni di consumatori, che si potrebbero chiamare consumatori smart buyer. Cioè coloro che sanno riconoscere i valori veri dei prodotti e dei servizi, e non sono più così tanto influenzabili dalla pubblicità, dalla comunicazione classiche. A questo si aggiunge l'effetto innegabile, purtroppo, della crisi economica, che ha accelerato, un po' il tutto. Quindi a questo punto qui c'è questo fenomeno dei discount, che non sono più i discount di prima maniera, quelli di 20 anni fa, che erano poco più di spazi aziendali, insomma, ma il discount è completamente cambiato. Quando era nato era a prezzi bassi, ambiente spartano, oggi ha dei contenuti completamente diversi, ha mantenuto le sue regole base. Sì, certo, anche l'esposizione in un determinato modo appunto dei prodotti, magari delle casse che sono un po' meno comode rispetto a quelle dei grandi centri. Non è più neanche così. Sono cambiate anche quelle, quindi anche ho un residuo di pregiudizio, Lombardini. Assolutamente sì. Sarò sfortunata con quello che è vicino a casa mia, evidentemente. Ma non escluso che quello vicino a casa sua sia il residuo di quelli vecchi, insomma. Benissimo. Perché purtroppo se fosse per caso nostro, mi scuso ampiamente, ma Non è il vostro, anche perché voi non siete a Milano. No, le LD Market peraltro ce ne sono a Milano? Molto pochi, siete un po' più purtroppo in provincia. Ci fermiamo perché abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario. 800 24 00 24, tantissime telefonate, tanti sms da parte degli ascoltatori, tante email, ve le racconto tutte quante tra pochissimi istanti. Discount, sinonimo di bassa qualità, verità o pregiudizio? La risposta si trova nella storia di un fenomeno che nasce in Germania nel secondo dopoguerra, per rispondere quindi, anche in quel caso, ad una crisi economica. La filosofia del discount si può riassumere in un'offerta snella, che dà poca attenzione alla forma e preferisce abbattere i costi. I discount alimentari arrivano in Italia negli anni Ottanta senza riscuotere grande successo. Per il vero e proprio boom bisogna aspettare il decennio successivo. Negli anni 90, visto il gran numero di punti vendita, la proposta arriva ad essere inflazionata, talvolta a discapito della qualità. Oggi il numero di questi negozi è diminuito ed è cambiata la fisionomia del mercato. Ci sono poche grandi aziende ben strutturate e organizzate. Si possono distinguere in due categorie. Gli hard discount sono più piccoli e non vendono prodotti di marca. Quelli soft, invece, si differenziano dagli altri supermercati per altre ragioni. Spesso utilizzano gli stessi produttori, con marchi di proprietà del distributore e prezzi inferiori. Ma la qualità è la stessa. Pur avendo anche i prodotti di marchi conosciuti, c'è un minor assortimento, un minor guadagno percentuale da parte della catena di distribuzione, poche casse e poco personale, un'estetica meno gradevole. Certo, abbattere i pregiudizi non significa fare la spesa con superficialità, e la cura al momento dell'acquisto, soprattutto nel caso dei prodotti freschi, non va mai dimenticata. Al discount, come in qualsiasi altro supermercato. E infatti, allora, agganciandomi alla conclusione della scheda, leggo un messaggio di un ascoltatore che dice: cosa ne dite del salame del marchio Lidl, che avevamo invitato anche questa mattina, non sono potuti intervenire, che contiene senape? Luciano Mazzone di Clicca Promo, quello che Tito Lombardini definiva lo smart buyer, voi lo definite il consumatore consapevole, è quello che legge l'etichetta. Quindi io dico che questo salame, se leggo che c'è la senape, non lo mangerei perché la senape mi fa schifo. L'importante è che ci sia ben indicato in etichetta, questo vale per i prodotti che vengono distribuiti negli hard discount quanto quelli che vengono distribuiti nei centri commerciali con insegne più famose. Esattamente, ed è una regola che vale sempre, così come vale sempre la regola di informarsi sui prezzi prima di andare ad acquistare, che è esattamente il mestiere di Clicca Promo, permettere al consumatore, prima di andare a fare la spesa o con le moderne tecnologie, magari da telefonino o direttamente a punto vendita, di verificare se il prezzo che si ha davanti è effettivamente il più competitivo oppure se da altre parti ci sono delle occasioni di risparmio, a volte anche molto significative. Fra quanto mettete tutte le offerte anche degli hard discount? Perché lo sarà un lavorone con tutti quelli che stanno proliferando in Italia. Quando gli hard discount ci daranno una mano per farlo, volentieri. Ah, perché il problema è lì? Beh sì, diciamo che noi recensiamo prevalentemente le offerte dei volantini, che sono molto numerose per i supermercati e più contenute per i discount. Per i discount sarebbe interessante recensire i prezzi dei prodotti venduti normalmente a prezzo pieno. Benissimo. Non solo le offerte. Adesso le faccio fare una chiacchierata in diretta con Tito Lombardini. Intanto qualche messaggio, qualche telefonata di qualche ascoltatore e poi torno a Tito Lombardini e a Rosario Trefiletti. Allora, chi sentiamo? Paola da Pavia. Buongiorno Paola e benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Ci racconti un po' cosa fa in famiglia lei quando va a fare la spesa? Ma abbiamo cambiato abitudini effettivamente da 4-5 anni. E facciamo una spesa per il 50% nei discount, non so se posso dire... Sì, vabbè, può anche dire il nome, vabbè, ma tanto l'importante LED, è che... Andiamo alle 10, ci troviamo benissimo, ci sono delle linee ecco, qui sembrerà che sto facendo la puntatona per Lombardini, però insomma è un caso, però... quindi specifichiamolo. Ha delle linee otte, una linea verde ottima, e fresche, eccetera. E al 50% in piccoli supermercati comunque sul territorio. Abbiamo eliminato le grosse distribuzioni, cioè gli ipermercati che ingolosivano e ci davano la sensazione di spendere di più. Ah beh certo, un po' quando si parla. Non so, il vestito piuttosto che la scarpa, le cose un po' inutili, quindi il grosso cambiamento per noi è stato proprio quello. Certo, ecco Paola, ci dica un po', lei ha detto che ha cominciato 4-5 anni fa, è stato così scioccante per la sua famiglia andare al discount appunto a fare la spesa? È stata un'esigenza razionale o determinata anche dal fatto che stavano cambiando le vostre condizioni economiche, per cui è stata una scelta obbligata? No, non è stata... Sì, ovviamente le condizioni economiche aiutano insomma a fare queste scelte, però non abbiamo lavoro tutte e due, non versiamo in situazioni pesanti. Quindi insomma un po' di razionalità vi ha portato a modificare... Un po' di razionalità e una maggior distribuzione sul territorio, cioè sul nostro paese hanno aperto questo supermercato, quindi ci siamo trovati molto bene, insomma. E abbiamo insomma, unito il fatto di avere la prossimità, insomma. La prossimità, infatti anche qui una parola d'ordine nel settore appunto del largo consumo. Lorenzo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Sì, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza personale. Ho sentito prima, avete parlato di sostituzione. Come consumatore ho avuto una sostituzione qualitativa e quantitativa dei miei consumi. Quindi ho fatto un processo inverso, cioè dal mondo dei discount, a cui ero più o meno affezionato, ho cambiato totalmente e mi sono avvicinato invece al mondo biologico. È una sostituzione quindi qualitativa, quindi non più cibo della GDO o del discount o che proviene dall'industria alimentare, ma più una scelta di consumi biologici a chilometro zero. Questo per dire cosa? È una sostituzione anche economica, perché io mi aspettavo di andare a spendere molto di più, ma invece, meno prodotti, mi sono reso conto che il prezzo che vado a pagare non è tanto differente da quello della GDO o dei discount. Benissimo Lorenzo, no, questo insomma ci porta a dire che tutto sommato con un po' di attenzione si può fare una spesa consapevole, portando a casa un po' di risparmio, portando a casa la qualità, modificando anche la qualità dei prodotti acquistati in un orientamento appunto biologico, come diceva Lorenzo, che anche lì in un altro pregiudizio pensiamo che costa tutto un po' di più effettivamente, però evidentemente ricercando sul mercato trova anche Lorenzo quello che fa per sé appunto a prezzi accettabili. Lombardini, voglio tornare da lei perché c'è un ascoltatore di Bergamo che scrive questi centri commerciali, riferendosi al suo, riescono a praticare questi prezzi così convenienti perché pagano i propri fornitori il 30% in meno pattuito dopo aver venduto la merce. Ma è così che succede? Per questo che riuscite a far fare a praticare magari, questi magari, è un sogno. Ecco, quindi salutiamo Ettore da Bergamo. Non è così. Senta, ma voi sui vostri sugli scaffali dei vostri centri, piccoli centri commerciali, piccoli discount, mettete prodotti prevalentemente italiani oppure ci mettete anche qualcos'altro? Guardi, in Italia abbiamo la fortuna di avere una piccola premessa. Per un'attività come la nostra, l'avere a che fare con dei fornitori qualificati, artigiani un po' riduttivo evidentemente, qualificati è elemento strategico, perché solamente se abbiamo dei fornitori veramente significativi riusciamo a sviluppare a pieno tutte le economie di scala di una filiera efficiente, no? Quindi diventa basico. E il fornitore non va visto come qualche cosa da spremere, ma esattamente il contrario, è un partner importante tanto quanto il consumatore. Quali sono i margini a cui rinunciate voi Lombardini comunque per continuare a mantenere un rapporto accettabile per il consumatore qualità-prezzo? Vorrei dargli una risposta numerica, ma è talmente da un lato delicato, ma non è questo che mi interessa. No, magari qualitativamente invece che quantitativamente quali sono? Guardi, tutti i prodotti di prima necessità hanno dei margini che non coprono le nostre spese generali, ma questo è assolutamente normale che un canale che si vuole affermare debba farlo, assolutamente. Seguendo proprio quella magnifica cliente che abbiamo che adesso è diventata la vostra testimonial preferita sul territorio, chiaramente su Pavia senz'altro. Certamente. Ecco. No, perché il successo della formula discount, se successo si può dire, insomma, ma io penso proprio di sì, perlomeno siamo usciti da un certo tipo di ghetto e giochiamo la nostra partita con dignità e con anche, oserei dire, dei risultati che sono di doppio significato, i nostri interni e la soddisfazione del cliente dall'altra parte. Allora, perché è successo? Perché in fin dei conti, e seguo sempre il mio ragionamento del smart buyer, 10-20 minuti bastano a rifornire la dispensa per un po', punto. Non c'è stress nel venire a fare acquisti presso un discount, che è tipico delle grandi superfici che lei ama, peraltro. Perché io mi rilasso a fare la spesa, non è che lo amo perché ho un particolare. Esatto, perché sono uscita fuori dopo 10 ore di lavoro, pensi modalità mi rilasso io. Ecco. Perfetto, che tipo di lavoro? Se c'è un lavoro che la sottopone a uno stress terrificante, è proprio quello che lei fa tutte le mattine, insomma. Quindi andare a un centro commerciale per lei è giocare, quindi ha ragione. magari se fossi una mamma di famiglia con quattro figli che invece deve mettere insieme pranzo e cena e rendere appunto leggero l'impegno economico appunto per nutrire tutti quanti, magari chiaramente farei un altro tipo di, avrei un altro tipo di comportamento, questo senz'altro. La lascio concludere, Lombardini. Sì. Questa vita è che ciascuno fa le sue scelte in funzione delle sue motivazioni di base, compreso questo signore di Brescia che ha shiftato verso il mondo bio, se è contento lui ha assolutamente ragione, insomma. Allora, poi sì. Sia vero fino in fondo è tutto un altro discorso. Comunque le dicevo, 15-20 minuti bastano a rifornire la dispensa per un bel po', no stress, zero dubbi sulle qualità, è un discorso, come possiamo dire, che potrebbe essere lungo e corto contemporaneamente. Se non si ragiona seriamente sulla qualità, non si va da nessuna parte chiunque. Però guardi, le devo leggere anche questo messaggio di Fulvio da Verona che ci scrive: io produco detersivi per discount, garantisco che il minor prezzo è giustificato da minor qualità. Inoltre alcuni discount sono succursali, ma questo non credo che sia un segreto, di grandi catene appunto commerciali. Rosario Trefiletti, Federconsumatori. Mi ha colpito molto la frase che ha detto Tito Lombardini: siamo usciti dal ghetto e adesso giochiamo la nostra partita. Addirittura un mondo che si sentiva ghettizzato prima. Sì, ma guardate che però ci sono anche le contromisure, perché il mercato è il mercato. Cioè, cosa voglio dire? È bene che siano usciti dal ghetto gli hard discount, questo va benissimo, non bene, ma attenti che la concorrenza è dovuta non solo alla concorrenza ma anche alla crisi delle famiglie, sta comportando che la forbice che esisteva prima tra supermercati, quelli tradizionali, e gli hard discount sta diminuendo. E cioè non è che i supermercati stanno fermi rispetto alla situazione attuale. Certo. Quindi questa è già un'informativa, noi proprio oggi daremo comunicazione alla stampa di quanto noi abbiamo verificato con il nostro osservatorio della diminuzione della forbice, non solamente tra il negozio tradizionale, il supermercato e l'hard discount, ma in termini generali e complessivi. Quindi questo è un primo punto. Voglio aggiungere anche come questione di servizio pubblico, diciamo così, e Radio 24 fa anche servizio pubblico, che per quanto riguarda la comparazione dei prezzi tra il mondo generale del commercio sui prodotti alimentari, sto parlando sempre solo dei prodotti alimentari, e gli hard discount, si può trovare con un servizio che proprio viene dato ai cittadini in termini gratuiti, del tutto gratuiti, che si chiama SMS consumatori. Sì, infatti dove ne abbiamo 90 prodotti dove il cittadino, facendo un SMS, digitando il la patata, pane, spigola o che altro, ma c'è anche il sito naturalmente, anche il sito, può avere in tempo reale, nel giro di qualche secondo, quanto costa il prodotto che vuole acquistare in termini medi e quindi fare la comparazione sull'hard discount. Terza cosa è un'istruzione per l'uso che noi diamo ai cittadini, anche qui per superare problemi, diffidenze che adesso sono già superate e molto condizionate ovviamente dalla crisi economica, ma noi abbiamo sempre consigliato: non fate accaparramento quando andate in un hard discount, ma fate come generalmente si dovrebbe fare, fate un test del prodotto che volete comprare, cioè anziché comprarne 5 scatole di pomodori, compratene uno, vedete, testate e tastate il gusto dei prodotti che volete acquistare, poi effettivamente si può andare nella direzione dopo aver avuto la risposta se il prodotto acquistato è, diciamo così, gradito in termini di sapore. È sempre il solito discorso: quando dobbiamo comprare il telefonino andiamo a fare delle ricerche molto accurate in 25 negozi, per il mutuo sentiamo appena due banche, adesso abbiamo capito che anche per i prodotti alimentari è meglio che facciamo qualche giro per vedere. Ecco. Questa è l'istruzione per l'uso fondamentale. Grazie Trefiletti. Allora, il tema della comparazione dei costi interessa direttamente Clicca Promo, ma anche l'altro tema che ha sollevato Trefiletti è molto interessante. Comunque, il discount, piaccia o non piaccia, pregiudizio o no, ha sicuramente rappresentato un grande pungolo anche per i grandi centri commerciali a contenere le politiche dei prezzi. Mazzone, questo certo, è indiscutibile. Tant'è vero che, se posso spezzare due lance a favore, una della grande distribuzione tradizionale, diciamo così, normali catene di supermercati hanno introdotto da anni ormai delle proprie marche discount, quindi anche nel supermercato, se si possono fare i nomi, mm-hmm. Esselunga, Carrefour, mm-hmm. Auchan, si trovano dei prodotti di marca commerciale a marchio del distributore di linee discount pensate appositamente proprio per in funzione del risparmio, e verso i prodotti di marca delle grandi marche industriali, quello che posso dire dal nostro osservatorio di recensori delle offerte e delle promozioni è che cercando con oculatezza le offerte si raggiunge tranquillamente il prezzo che si pagherebbe per un prodotto analogo presso i discount, quindi informandosi prima si riescono a cogliere le migliori opportunità di risparmio in tutti i sensi. Ci sta venendo da ridere, in realtà viene da ridere a me perché sto leggendo un messaggio di Massimo da Roma, l'ultimo che è arrivato, fantastico: mentre parlate ho cucinato vermicelli di un discount famosissimo di semola di grano duro scotti in 5 minuti ascoltandovi. Massimo si sarà distratto. Nell'etichetta ogni luogo di produzione, grano e lavorazione in cirillico, non capisco niente. Allora, quindi mettiamola così, che molti passi avanti anche questa nuova industria deve farli con la comunicazione, con la qualità dei prodotti, ma rispetto a 20 anni fa, a quando dalla Germania sono arrivati in Italia, di cambi di marcia ne hanno fatti tantissimi. Sentirei ancora un paio di ascoltatori per poi concludere con i nostri ospiti. Allora, chi è che c'è? Flavia dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, io sono un insegnante e devo dire la verità che quando ero precaria i discount mi hanno salvato la vita perché mi facevano mettere a tavola il mangiare, ma adesso faccio lo stesso la spesa al discount perché trovo che soprattutto i latticini sono buonissimi, lo yogurt è fantastico. Poi io sono vegetariana per cui frequento anche il biologico, e quello che vorrei chiedere è anche un'attenzione a cose di soia o di seitan che ancora non si trovano nei brava discount. Flavia, il latte di soia di cui anch'io sono consumatrice e costano tantissimo, centri commerciali normali, in quelli più piccoli, non so per quale ragione non si possa arginare un pochino, ma effettivamente è quasi impraticabile per chi ha delle intolleranze alimentari. Antonella dalla provincia di Latina, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo intervenire appunto sui discount più che altro, perché c'è una non sicurezza del prodotto, nel senso che se io vado in un discount e compro un qualsiasi prodotto e mi trovo scritto dietro prodotto per da, ma non sempre c'è, non sempre c'è poi una tracciabilità del prodotto, ma chi controlla cosa? Io questo vorrei capire. Certo. Se io compro un prodotto al supermercato e costa 3 euro, ipotizziamo, e un facsimile lo vado a prendere in un discount a 1,50 euro, a 1,30 euro, come posso pensare che sia lo stesso prodotto, che pago solitamente solamente la pubblicità perché quello è un grosso marchio? Certo. Cioè, Antonella, la ringrazio. Garanzia? Sentiamo dei commenti su questi ultimi aspetti sollevati. Mazzone, ci vuole commentare un po' questo punto di vista di questa ascoltatrice, che è assolutamente condivisibile perché con tutti i passi avanti di cui abbiamo raccontato però qualcosa ancora da fare c'è. Cioè, il tema della tracciabilità dei prodotti è largamente insoddisfacente ancora per i nostri consumatori. Beh sì, ci sono in etichetta parecchie informazioni, sicuramente non tutte. Per esempio sulla lista degli ingredienti, parlando di prodotti alimentari o anche di detergenza, l'ordine degli ingredienti significa riflette la posizione che hanno di importanza nella produzione di quel prodotto, ma non viene detto quanto di ciascun ingrediente, quindi non viene svelata esattamente la composizione fino all'ultimo grammo o all'ultima frazione per quanto riguarda i detersivi. Quindi nulla sostituisce un'informazione più ampia o addirittura una prova, certo, un test diretto del prodotto. Tito Lombardini, lascio concludere lei su questi aspetti. Lei mi dirà: io nei miei discount ho tutto a posto, delle etichette super complete, precisissime, però perché per esempio i suoi concorrenti non possono fare qualcosa di più rispetto in termini di comunicazione appunto ai consumatori? Ma credo che più o meno se noi abbiamo cominciato prima gli altri arriveranno, stia pur tranquilla. Ma sui detersivi, giusto per tagliare la testa al toro, noi tempo fa, perché c'è questo rischio... I detersivi dell'ascoltatore che prima ci diceva io li produco sono di minor qualità, No, abbiamo tagliato la testa al toro, nel senso che il nostro fornitore di detersivi è un'azienda che si chiama Dusty, una multinazionale, che impacchetta per noi, come in pacchetta per altre grosse sigle di marche commerciali, di chissà che compagnia cantante, giusto per non avere problemi in questo senso. Il nostro controllo qualitativo è molto banale, perché mandiamo delle persone che stanno lì una giornata, due giornate intere, a vedere se dai grandi silos dove c'è il prodotto sfuso, quando scende dalla famogia e viene infilato nelle macchine di confezionamento, è finito il nostro, attacca, ho detto Dixon. Quindi il risparmio che voi potete far praticare ai vostri consumatori, ai vostri clienti, è da che cosa dipende? Sì. La scatola che è meno bella? No, anche la scatola deve essere bella, perché il consumatore non si può... E allora rinunciate voi a un po' di introito, qual è il punto? No, ma soprattutto c'è l'incidenza del marketing e della comunicazione che è profondamente diverso, quindi non è che noi siamo delle persone che fanno dei miracoli. Abbiamo semplicemente dei criteri che ci permettono di avere delle risorse. Spendete un po' meno in pubblicità, preferite il passaparola vero, Lombardini. Vero. Guardi, ecco. Ho davanti a me, essendo raffreddato, ho davanti a me dei fazzoletti di carta. Mm-hmm. Le posso fare questo esempio? Sì. Ho uno che si chiama ovviamente il nostro, con l'altro con il nome più famoso. È più noto che c'è in giro. Uno costa 1,99 e il nostro è 0,99. Un euro di differenza. Mi creda che dal punto di vista dell'utente raffreddato non c'è nessuna differenza. E invece c'è qualcuno che pensa che magari possano irritare un po' di più il naso, che abbiano meno emolienti, che siano meno delicati, per cui insomma provare per credere. Poi se uno non è soddisfatto torna al vecchio, voglio dire, siamo in un paese libero. Volevo sentire gli ascoltatori, abbiamo terminato, ce ne sarebbero stati tanti altri appunto da leggere e commentare, non lo so, magari ritorneremo presto su questi argomenti, no, forse ancora un minuto e mezzo di tempo. Trefiletti, vuole darci un'ultima indicazione, rispetto a tutto quello che abbiamo detto a questo momento, tanto per concludere? Discount non è poi male, insomma l'importante è che si possa alleggerire questo peso terribile per le famiglie, che in realtà è determinato da un reddito che non ci fa arrivare più da nessuna parte. Il problema è, rispetto anche a quanto è stato detto sull'etichettatura lettura dei prodotti e degli ingredienti, le regole sono identiche per tutti, per il discount, per il supermercato, per il negozio di via Monte Napoleone a Milano. Quindi allora chi non scrive tutto in realtà rispetta la legge alla lettera, sono gli altri che sono più precisi, ecco. Ecco, non diamo una falsa indicazione ai cittadini. Le regole, sia per quanto riguarda la sicurezza, come ho detto nel mio intervento iniziale, e anche per quanto riguarda l'informativa, l'etichettatura, le regole sono assolutamente identiche. E quindi, come è per il negozio di via Monte Napoleone, la stessa cosa è per la discount. E certo, poi io dico, insomma, il mercato è quello, se non siete... va denunciata. Se non siete soddisfatti, i prodotti lasciateli lì e evidentemente poi il centro commerciale si adeguerà. Grazie a tutti, a Luciano Mazzone, Tito Lombardini, a Rosario Trefiletti. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti. Salvadanaio.